Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Questa non l'avevo mai sentita. No, come? È su tutti i giornali oggi. No, Berlusconi... non l'avevo mai sentita. No, ma il bello è pare che lui non lo sappia. Ma così come io, quando ci siamo visti a Catania, ho detto, scusa Silvio, ma non continuare a dire sta roba dei ministri. A, non ne abbiamo mai parlato. B, è l'ultima delle cose che gli italiani sono interessati ad ascoltare. Evidentemente, almeno secondo Salvini è così, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che oggi stamattina ha parlato a Radio 24 a proposito di questo lancio di candidatura ieri di Silvio Berlusconi. A Che Tempo Che Fa, alla domanda di Fazio, e ha detto: ma se lei non dovesse poi essere candidabile, sapete che sta aspettando la sentenza da Strasburgo per sapere se potrà candidarsi in prima persona per le elezioni politiche oppure no. Lui ha lanciato il nome dell'ex generale dei Carabinieri Gallitelli, e oggi Salvini, sapete che c'è insomma questa contesa di premiership all'interno del centrodestra, ha detto: ma veramente non ne sapevo nulla, ha detto, anzi io ho detto di non fare nomi così, diciamo in libertà. Torneremo ovviamente sulla politica, perché poi c'è anche tutta la polemica sulle fake news tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, nonché tutte le varie promesse elettorali, stanno fioccando tantissime, dal veterinario gratis agli 80 euro per tutti, a meno migranti, il reddito di cittadinanza, insomma. A quale credete di più, a quale credete di meno? Ricordatevi che ci sono sempre due modi per interagire con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Poi parleremo anche di qualità della vita, perché c'è la classifica del Sole 24 Ore che premia le città dove si vive meglio, naturalmente ci sono quelle dove si vive peggio, purtroppo c'è questa discrasia sempre tra nord e sud, e poi scopriremo anche qual è la città che è risalita maggiormente rispetto alle precedenti edizioni, e poi un po' di leggerezza anche con quello che possiamo definire il gossip alto. Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, ha annunciato che si sposerà con l'attrice Meghan Markle, che ha 5 anni più di lui. Insomma, diciamo che la casa reale inglese si sta mentalmente aprendo. Allora, prima di affrontare questi argomenti, come sempre io vi riassumo la giornata, vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666. Vediamo che giornata è stata. Manovra, arriva un fondo da 60 milioni in 3 anni per chi assiste un familiare grave in casa, sconti fiscali per le librerie. La politica, il Movimento 5 Stelle attacca il PD sulle fake news, e nel centrodestra Salvini a Radio 24 smentisce Berlusconi sulla candidatura del generale Gallitelli. Ostia, vertice oggi in prefettura a Roma per la questione sicurezza. Il capo della polizia Gabrielli assicura: dalle parole passeremo ai fatti. La 22enne suicida in Sardegna per video hard. La procura acquisisce il filmato. Ci sono 3 indagati, tra le ipotesi di reato l'istigazione al suicidio. Glifosato, via libera dell'Unione Europea al rinnovo per altri 5 anni dell'uso del potente erbicida. Italia e Francia votano contro. I reali inglesi, Harry e Meghan saranno sposi a primavera. Felicitazioni dalla regina Elisabetta e del principe consorte. Calcio, l'allenatore Montella esonerato dal Milan, dice: è stata colpa mia. Partiamo quindi dalle novità che riguardano la manovra economica, il cui esame da parte dell'Aula del Senato slitta mercoledì mattina. Via libera intanto un emendamento a sostegno di chi assiste familiari non autosufficienti. Via libera al fondo per chi assiste anziani e malati gravi in famiglia. La Commissione Bilancio del Senato ha infatti votato all'unanimità un emendamento alla manovra che stanzia 20 milioni di euro l'anno per il prossimo triennio. Risorse prevede la correzione destinate alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, del convivente di fatto o di una delle parti dell'unione civili tra persone dello stesso sesso. L'aiuto sarà valido anche per coloro che assistono un familiare fino al terzo grado o un affine entro il secondo grado non autosufficiente o invalido. Previsto poi un alleggerimento del super ticket sanitario. Le risorse a disposizione del Senato, ha spiegato il capogruppo PD in Commissione Bilancio Giorgio Santini, ammontano a 60 milioni, ma la somma potrà eventualmente aumentare alla Camera. In arrivo anche uno sconto fiscale fino a 20.000 euro per tutelare le librerie. L'emendamento alla manovra prevede in particolare un credito d'imposta su IMU, TASI, TARI e sull'eventuale affitto. Nel corso del fine settimana la Commissione Bilancio del Senato Senato ha dato anche il via libera allo slittamento della web tax al 2019 e all'emendamento del governo sulle pensioni che esclude 15 categorie di lavori gravosi dall'innalzamento a 67 anni dell'età pensionabile. La manovra dovrebbe approdare mercoledì in aula in Senato. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto il ministro del Lavoro Poletti ha detto che con il reddito di inclusione il governo punta a una platea potenziale di 2,5 milioni di italiani. Da venerdì gli italiani potranno fare domanda per il reddito di inclusione, misura di contrasto alla povertà operativa dal prossimo 1 gennaio. In prima battuta si rivolgerà a famiglie con minori, disabili, over 55 disoccupati e donne in gravidanza, in totale 1,8 milioni di persone, ma da luglio, quando diventerà universale, la platea potenziale salirà a 2,5 milioni di persone per 700 nuclei familiari, spiega il ministro Poletti, che avverte è un passo importante, ma la strada è ancora lunga. Noi dobbiamo essere consapevoli che può mostrare dei limiti e quindi col presidente Boeri abbiamo anche convenuto di fare un reporting, quindi dare un report trimestrale. Il presidente dell'INPS Boeri parla di svolta epocale, ma bisogna aumentare la dotazione di risorse. Trovo abbastanza strano che di fronte a questi dati sulla povertà ci sia chi continua a invocare maggiori risorse per la spesa pensionistica, che è destinata a salire al 18% del prodotto interno lordo. Un monito quindi per partiti e sindacati, conclude Boeri. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di tassi adesso, perché l'autorità garante della concorrenza e del mercato boccia le tasse sugli Airbnb, quelle cioè sugli affitti brevi. L'obiettivo è condivisibile, contrastare l'evasione fiscale, ma la modalità non è corretta e altera le dinamiche concorrenziali tra gli operatori, con effetti negativi anche sui consumatori. L'antitrust punta il dito contro la cosiddetta tassa Airbnb, cioè la cedolare secca sugli affitti brevi al 21% introdotta con la manovra bis e scattata a settembre. Per il garante si tratta di obblighi non proporzionati che colpiscono gli intermediari che fanno maggior ricorso a sistemi di pagamento digitali come Airbnb, mentre altri operatori che hanno la possibilità di far saldare in contanti riescono di fatto a sottrarsi all'obbligo. Nel mirino dell'antitrust anche l'equo compenso, che potrebbe essere esteso dalla prossima manovra a tutti i professionisti. Tariffe professionali fisse e minime per l'autority porterebbero ad una grave restrizione della concorrenza. Ma le bocciature dell'antitrust non si fermano qui. Un'altra segnalazione riguarda le norme del decreto fiscale sul copyright. Un passo in avanti verso l'apertura alla concorrenza c'è stato, ma non basta, e c'è il rischio che il monopolio sulla gestione dei diritti d'autore resti di fatto alla SIAE. L'apertura, spiega infatti l'Authority, riguarda altri organismi comunitari di gestione collettiva, mentre restano esclusi gli operatori privati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alla politica, polemica sulle cosiddette fake news, le bufale, le notizie false. Tra PD e Movimento 5 Stelle, il Movimento all'attacco sul blog di Grillo del segretario del PD Renzi sul tema, ritornando sugli articoli del sito BuzzFeed e New York Times, partiti secondo il Movimento 5 Stelle da una ricerca condotta da un dipendente di Marco Carrai, essendo vicino a Renzi, dice piuttosto è un giochino messo in atto dal Partito Democratico, dice il Movimento 5 Stelle, e il PD reagisce con Matteo Orfini, che dice ci sarebbero strane convergenze tra il Movimento 5 Stelle e Salvini. Nel centrodestra nel frattempo prosegue, come vi dicevo, la sfida tra Berlusconi e Salvini sulla leadership. Ieri il leader di Forza Italia ha lanciato la candidatura dell'ex generale dei Carabinieri Gallitelli. Oggi Salvini a Radio 24 ha detto che non ne sapeva nulla, e tra poco torneremo su tutto questo e anche sulle promesse elettorali. Vedo già diversi vostri messaggi su questo. Prosegue intanto il viaggio del Presidente del Consiglio Gentiloni in Africa. Angola, Ghana, infine Costa d'Avorio. Procede il viaggio istituzionale di Paolo Gentiloni in Africa e si avvicina l'appuntamento di mercoledì, quando il Premier parteciperà al vertice tra l'Unione Europea e l'Unione Africana ad Abidjan. L'incontro, che coinvolgerà i rappresentanti delle istituzioni europee e i principali leader del vecchio continente, dovrebbe delineare la strategia europea per l'Africa. Che il futuro dell'Europa si giochi anche in Africa credo sia molto chiaro, soprattutto a noi italiani, ha sottolineato il capo del governo al termine dell'incontro con il presidente dell'Angola, João Lourenço. Abbiamo un interscambio di 34 miliardi di euro con l'Africa, ha ricordato. Può crescere molto. A Luanda, l'ENI ha concluso un accordo che le assegna il 48% dei diritti di blocco onshore di Cabinda North, di cui l'azienda italiana diventa anche operatore. Andrea Carli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di Ostia, della situazione difficile del quartiere, il grande quartiere di Roma. Vertice oggi in prefettura, nella capitale, per la questione sicurezza dopo gli episodi criminosi degli ultimi giorni. Sul tavolo l'aumento del numero di forze dell'ordine presenti su quel quadrante della città. Ci sarebbe un legame diretto tra le due intimidazioni contro il clan degli Spada, con la testata sferrata da Roberto Spada al giornalista Pier Vincenzi, il ferimento del proprietario di una pizzeria e del pizzaiolo, un 41enne nipote del boss Carmine Fasciani, mai imparentato anche con gli Spada. In sostanza, per gli investigatori si sarebbe rotta la pace tra i clan di Ostia per accaparrarsi i traffici, che sono droga, usura, gioco d'azzardo, rack delle case popolari. Il probabile squilibrio dell'assetto criminale potrebbe essersi creato proprio in seguito all'arresto di Spada, successivo all'aggressione al giornalista, e da quel momento è accaduto di tutto. E dopo alcuni tentennamenti, annunci, giunge la risposta dello Stato con l'aumento del numero delle forze dell'ordine presenti ad Ostia, misura chiesta dalla nuova maggioranza guida 5 Stelle e dall'opposizione. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in serata il capo della polizia Gabrielli ha detto: passeremo dalle parole ai fatti. Parliamo di questa sentenza, 5 anni di carcere e 100.000 euro di multa per Salvatore Ligresti. Lo ha deciso il Tribunale di Milano, che ha condannato anche a 4 anni e 80.000 euro di multa l'ex immobiliarista Giancarlo De Filippo e a 3 anni e 60.000 euro di multa il fiduciario Nicolò Lucchini, nell'ambito del processo per una presunta manipolazione del mercato sui titoli Premafin. E ora parliamo anche di questa decisione dell'Unione Europea. Alla fine i paesi dell'Unione hanno votato per rinnovare per altri 5 anni l'autorizzazione del controverso erbicida, il glifosato, sospettato di essere cancerogeno. A favore sono espressi 18 paesi, 9 i contrari, un astenuto, e a far vincere i paesi sostenitori del glifosato è stata la Germania. L'Italia è tra quelli che ha votato contro, insieme a Francia, Belgio, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Lettonia, Cipro e Malta. Si è astenuto invece il Portogallo. G20, è stato rimesso in libertà oggi Fabio Vettorel, il ragazzo italiano arrestato a luglio durante gli scontri del G20 ad Amburgo in Germania. La Cassazione si era pronunciata a favore della scarcerazione venerdì scorso, ma aveva posto due condizioni procedurali, cioè il pagamento di una cauzione da 10.000 euro a nome del 18enne e la nomina di un procuratore sul luogo. Cronaca, c'è questa svolta nelle indagini sul suicidio della ragazza di 22 anni di Porto Torres in Sardegna, avvenuto tra il 4 e il 5 novembre scorsi in casa di un'amica, la Maddalena. È stato trovato e acquisito dagli inquirenti il video hard che avrebbe spinto la giovane a togliersi la vita, in una vicenda ancora tutta da chiarire, costellata di minacce, di estorsioni. Ci sono anche i primi sospettati, 3 persone della cerchia di amicizia della vittima. Tra le ipotesi di reato, istigazione al suicidio, tentata estorsione e diffamazione aggravata. Radio 24 Day. È Belluno la capitale d'Italia per la qualità della vita, seguita da Aosta, che lo scorso anno era in vetta, e Sondrio, se la passano peggio invece i cittadini di Caserta, che è ultima in classifica, preceduta da Taranto e Reggio Calabria. A rivelarlo è la 28ª edizione dell'indagine del Sole 24 Ore sulle 110 province italiane, che ogni anno pungola l'orgoglio degli amministratori, scatena la resa dei conti sulle capacità di governo dei vari avversari politici, e quindi sulla qualità poi della vita. Il dato che l'indagine consegna è la conferma poi del divario sempre più profondo tra nord e sud del paese e la crisi delle grandi città. Nel corso di Effetto Notte poi scopriremo qual è la città che è riuscita a risalire più punti della classifica dalle ultime edizioni sino ad oggi. Poi la notizia che riguarda i reali inglesi, Harry e Meghan. Harry è il secondo genito di Carlo e Diana, saranno sposi a primavera. Felicitazioni dalla regina Elisabetta e il principe consorte. Poi torneremo a parlarne anche per questa ormai grande apertura, diciamo, della casa reale inglese. Per chiudere il calcio, il Milan ha esonerato Vincenzo Montella, affidando la squadra a Rino Gattuso. Allenare il Milan, ha detto Montella, è stato un onore, lavorare in questo gruppo ancora di più. Auguro a Rino di riportare il Milan dove merita. E poi, dopo tutte le polemiche e le discussioni ancora durano sulla mancata qualificazione della nazionale maschile, c'è un'altra nazionale in corsa per la qualificazione a un mondiale di calcio, e quella femminile italiana, che domani, diretta poi se volete seguire sulla pagina Facebook della nazionale, sarà impegnata nella quarta partita di qualificazione per i mondiali di Francia 2019 in casa del Portogallo, e punta ad aggiungere un altro tassello per raggiungere la fase finale, che manca da 20 anni. Si tratta di un percorso lungo e difficile, avverte l'allenatrice Milena Bertolini, come lungo e difficile il cammino del calcio femminile in Italia, il gap, la differenza, insomma lo scarto con le nazioni che hanno introdotto il professionismo anche fra le donne, resta in Italia ancora adesso, anche se qualcosa per fortuna sta cambiando. E con questa notizia, direi, il riassunto della giornata è fatto. Aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo ad affrontare i vari temi con gli ospiti. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Walter dice: se votato è per me, a proposito delle promesse elettorali, vi garantisco un pieno di carburante gratis al mese, non male diciamo. E poi invece c'è Daniele che dice, Floriano, che dice: Berlusconi non ha parlato di un'eventuale pensione per i cani, forse mi è sfuggita la notizia. Francesco invece scrive: se promettono castelli in aria è perché sanno che nonostante tutto non mancheranno i creduloni disposti ad abitarli. Ne parliamo dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti pieni come sempre di notizie che vi racconto ogni sera, da lunedì al venerdì. Accendete puntualmente alle 21, ricordatevi, per avere prima il riassunto della giornata e poi per capire meglio alcuni temi in particolare che poi tratto man mano con gli ospiti. Siamo insieme fino alle 22, Roberto Giordano sempre con voi. I titoli ogni tanto ve li ricordo, c'è qualcuno che non puntualmente risponde all'appello alle 21 e quindi tra poco ve li ricorderò. Intanto i vostri messaggi che stanno arrivando come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli SMS e WhatsApp che devono andare al numero 349-238-6666. A proposito di politica, di cui parleremo tra pochissimo, e delle promesse anche elettorali, Giorgio dice: e sarà sempre primavera, non l'ho ancora promesso qualcuno. A me piacerebbe se qualcuno dicesse che sarà sempre estate, lo voterei senz'altro. Poi invece Sigurd dice: mi aspetto che Berlusconi prometta un bel ponte tra Lazio e la Sardegna, insomma per lo più siete ironici. Gianmaria: forse dovremmo farci delle domande anche sulla qualità dell'elettorato, l'offerta solitamente cerca di avvicinarsi alla domanda. E allora, prima di tutto questi titoli. Manovra economica, arriva un fondo per chi assiste un familiare grave in casa e poi sconti fiscali per le librerie. Per la politica il Movimento 5 Stelle attacca il PD sulle fake news e nel centrodestra Salvini a Radio 24 smentisce Berlusconi sulla candidatura del generale Gallitelli. Ostia, vertice oggi in prefettura a Roma per la questione sicurezza. E poi la 22enne suicida in Sardegna per un video hard, la procura acquisisce il filmato, ci sono 3 indagati, tra le ipotesi di reato anche l'istigazione al suicidio. Glifosato, via libera dell'Unione Europea, rinnovo per altri 5 anni dell'uso del potente controverso erbicida, Italia e Francia votano contro, i reali inglesi Harry e Meghan saranno sposi a primavera. Per il calcio l'allenatore Montella, che è stato esonerato dal Milan, dice: è stata tutta colpa mia. Per una volta qualcuno che dice che è stata colpa sua in Italia, Barbara Fiammeri, del Sole 24 Ore, cara Barbara. Sì. Cosa vogliamo, un Tella for President? Beh, insomma. Senti, non ha avuto molto successo come allenatore del Milan. Hai ragione, quindi, ma chissà. Allora, concentriamoci su chi già in politica c'è, sulla politica italiana. Il fine settimana si è appena concluso un programma ricco, c'è stato, perché avevamo parlato già venerdì dell'inizio della Leopolda, l'ottava edizione della Leopolda a Firenze, no? Quella che ha lanciato Renzi qualche anno fa verso la politica nazionale, poi la contro Leopolda di Forza Italia invece a Milano e Silvio Berlusconi con le sue dichiarazioni A che tempo che fa, che hanno fatto molto discutere. Anche stamattina c'è stata la risposta, la replica di Salvini, no? Sapete, appunto, questa sfida che continua per la leadership all'interno del centrodestra. Non è il solo elemento di polemica questo, anche il tema delle fake news, cioè delle bufale messe appositamente in giro per screditare qualcuno, screditare qualche avversario. Dopo le accuse arrivate dal PD al Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle passa al contrattacco. Da dove iniziare, cara Barbara, magari su questa storia delle fake news, no? Che può essere poco chiara magari per qualcuno. Ma sì, diciamo che il problema delle fake news è legato all'uso dei social, perché non che le notizie false in passato non ci fossero, però quantomeno c'era un filtro che era quello dei media riconosciuti, per cui c'era sempre la possibilità, diciamo, della querela, non che non ci sia in questo caso, però è evidente, diventa più complicato, no? Molto più complicato, anche perché diventano virali, cioè vengono condivise L'ultima è stata quella della Boschi e la Boldrini, che in un fotomontaggio hanno messo presenti al funerale di Rina, mentre era un altro funerale quello a cui erano presenti. Robe da pazzi, infatti. Barbara, sì. Senti, riassumo brevemente per chi non lo sapesse. Allora, in breve, che cosa è successo? Il New York Times, uno dei quotidiani più prestigiosi del mondo, e il sito di notizie BuzzFeed hanno pubblicato a novembre, tra il 21 e il 24, due inchieste giornalistiche secondo le quali l'Italia sarà il prossimo obiettivo di queste fake news, evidentemente perché si sta avvicinando alle elezioni politiche, no? E nel mirino di questi due quotidiani c'è il Movimento 5 Stelle, che quindi si è molto arrabbiato. E la Lega. Secondo i pentastellati, come si legge dal blog di Grillo, dietro queste inchieste giornalistiche ci sarebbe lo zampino del Partito Democratico. Allora farei sentire prima Renzi che cosa aveva detto alla Leopoldi su questo tema. Quindi se Salvini vuole andare dal notaio, già che c'è un viaggio e due servizi, prenda l'impegno di dichiarare come i movimenti che sostengono Noi con Salvini e l'Unofficial sui social hanno relazioni non solo con Berlusconi ma con i 5 Stelle, perché questo giochino non è un giochino che passa più inosservato. Vi abbiamo sgamato, amici dell'opposizione. Non vi chiediamo di fare alcunché, vi diciamo che ogni 15 giorni il PD presenterà un rapporto ufficiale sulla rete di tutte le schifezze che troviamo. E sentiamo dal Movimento 5 Stelle cosa replica Castelli. La vera emergenza per le prossime elezioni è il voto di scambio, come dimostra anche il voto siciliano. Noi abbiamo chiesto l'intervento dell'OSCE, che allora potrà intervenire anche sulle fake news, tema sul quale il Movimento 5 Stelle è spesso stato vittima. E adesso farei sentire Salvini, il passaggio, poi sentiamo l'altro invece sul generale Gallitelli, sempre a proposito di fake news questa mattina a Radio 24. Le vere fake news sono la stragrande maggioranza dei giornali e dei telegiornali italiani, ma non abbiamo mai incassato una lira di pubblicità a prova di smentita di chiunque. Figurati te se io vado su Facebook per incassare un centesimo di euro di pubblicità. Io provo a usare Facebook o i social per avere un minimo di voce per contrastare il TG1 e il TG5 e le bufale di regime. E le bufale, che siano di regime o non di regime, Barbara Fiammeri, penso che saranno uno dei temi, no, di questa campagna elettorale, già cominciata in pieno. Anche perché abbiamo visto già dei precedenti, no? L'abbiamo visto negli Stati Uniti, c'è stato un tentativo anche in Francia, c'è stato un tentativo in Germania, cioè... il problema non è che riguarda solo l'Italia. Per quanto riguarda l'inchiesta del New York Times e dell'altro sito, che ricordiamo era quello poi che aveva tirato fuori il rapporto sulle relazioni tra i Trump, diciamo, e la Russia, sì. E per quanto riguarda il New York Times, insomma, ecco, qui mi sento di dire che la voce è molto autorevole, cioè stiamo parlando di uno dei principali quotidiani del mondo. Insomma, prima New di York dire Times. Che mi viene un po' da sorridere pensare che il New York Times possa essere al servizio di Renzi, sinceramente. E per quanto riguarda invece quello che avviene a casa nostra, cioè non c'è dubbio che ci saranno sicuramente anche queste elezioni dei tentativi che già vediamo, insomma, abbiamo visto tutta la vicenda dei vaccini, cioè non riguarda solo la politica, cioè le fake news sono ormai un problema che probabilmente in qualche modo andrà gestito, non solo a livello politico ma in generale. Qui in questo caso quello che si dice è che praticamente i 5 Stelle, da quello che capisco, poi sinceramente tecnicamente non sono neanche in grado di argomentarlo, ma c'erano delle vicinanze tra gli stessi praticamente gestori di queste notizie, che erano gli stessi che venivano rilanciate dai 5 Stelle e da Noi con Salvini. Questo è quello che ho capito. Però a volte si può essere anche vittime, cioè gli stessi siti che poi le rilanciano, gli stessi utenti di Facebook che le rilanciano, che condividono una notizia che in realtà è un falso, diventano a loro volta artefici, no, della propagazione di questa falsa notizia, ma in modo anche inconsapevole. Quindi il problema c'è. Per quanto riguarda il voto di scambio, a cui faceva riferimento la Castelli, anche con riferimento alle ultime elezioni regionali e alle indagini in corso, mi viene da dire, io non sono una fan delle preferenze e e non a caso le preferenze che sono nelle elezioni regionali, e mi ricordate anche il caso del Lazio, no? che di anni fa, quando ci fu lo scandalo nel Lazio, appunto, poi si vide che coloro che avevano preso il maggior numero di preferenze in realtà erano quelli più immischiati in scandali all'interno della regione. È un problema che esiste e che in qualche modo va affrontato, però tenendo conto che laddove c'è la possibilità di raggiungere un certo numero di voti, il rischio del voto di scambio è sempre in agguato, soprattutto nelle realtà più deboli, meno che si tutelano meno rispetto a questo, no? Qualcuno lo lega anche alle promesse, dice, poi ne parleremo, dicendo questo poi è il vero voto di scambio. Comunque, per quanto ma riguarda le promesse, sai, le promesse invece secondo me fanno parte proprio del gioco politico, poi se uno ci vuole credere, cioè, ma tra poco ci andiamo. Però prima dimmi se ci credi, invece sentiamo che cosa ha detto ieri Silvio Berlusconi quando, a che tempo che fa, Fabio Fazio gli ha chiesto: ma se lei non fosse poi candidabile, se Strasburgo, la Corte di Strasburgo, sappiamo che sta attendendo la sentenza per capire se sarà candidabile o no, se non dovesse essere candidabile, chi lancerebbe come premier del centrodestra? E Berlusconi ha fatto questo nome. Le dico una persona molto capace, a cui però non mi sono ancora rivolto, non sono entrato in argomento, ma per individuare il tipo di persona, qualcuno che abbia fatto cose con successo e che sia perciò stimabile da tutti. Il generale dei carabinieri Gallitelli, che è considerato, Leonardo Gallitelli, come uno dei migliori vertici del corpo dei carabinieri. Questa è una notizia, quindi lei pensa al generale Gallitelli come... Io penso come esempio. Ecco, questo è un esempio che ha fatto. Sentiamo come ha risposto quello che doveva essere il suo alleato nel centrodestra, Salvini, leader della Lega, oggi a 24 mattino qui a Radio 24. Questa non l'avevo mai sentita. No, come? È su tutti i giornali oggi. No, ma il bello è pare che lui non lo sappia. Ma così come io, quando ci siamo visti a Catania, ho detto: scusa Silvio, ma non continuare a dire sta roba dei ministri. A, non ne abbiamo mai parlato. B, è l'ultima delle cose che gli italiani sono interessati ad ascoltare. Quindi lui ha detto, Berlusconi ha detto che l'avete sentito e avete eravate d'accordo su 12 e 8 e non è vero. Non è ma vero. Se non abbiamo ancora sottoscritto il programma comune. Quindi questa è la risposta di Salvini. L'ironia di Maio oggi, di Maio del 5 Stelle, che ha detto l'hanno già ammazzato politicamente Gallitelli. Ma al di là di questo, Barbara, è una fake news questa? No, ma ti chiedo, è opportuno comunque nel caso, ma l'ha fatto, l'abbiamo sentita la sua voce di Berlusconi, candidare un rappresentante delle forze dell'ordine, delle forze armate, cioè non ha delle vocazioni un po' inquietanti, al di là che magari possa essere la migliore persona di questo mondo? Ma certo, pensare che si debba andare a prendere un uomo che viene dalle forze dell'ordine, dall'arma dei carabinieri come premier, insomma, certo, non... diciamo che ha rende insomma la scelta abbastanza singolare, per usare un eufemismo, ma devo dire, stavo dicendo prima, che questa è una fake news. Perché? Ma perché l'ha buttata lì, però l'ha buttata. Ma non intendo in questo senso, e adesso spiego perché. Tutta questa storia sul candidato premier, che sia quella di Salvini che si autocandida alla premiership, che sia Berlusconi che lancia Gallitelli, Marchionne piuttosto che Draghi, è una finzione, è una finzione, perché sappiamo tutti benissimo che dopo le elezioni a decidere sarà il capo dello Stato sulla base delle maggioranze che si stabiliranno in Parlamento. Cioè, non esiste in questo turno elettorale qualcuno che possa dire candidiamo il signor Rossi a Presidente del Consiglio. Tant'è che sulla scheda elettorale ogni partito, non sulla scheda elettorale, sul programma che verrà consegnato, i partiti autonomamente indicheranno il loro candidato, anzi nemmeno il candidato, il capo della forza politica, che per esempio sarà sempre Berlusconi probabilmente. E quindi dire chi sarà il candidato, cioè lo scontro sul candidato, in realtà nasconde quello che è lo scontro vero che c'è tra Forza Italia e la Lega, sia per accaparrarsi i voti degli elettori di centrodestra, ma anche perché in questo scontro si nasconde da un lato Salvini, che chieda agli elettori del centrodestra: votate me perché io sono sicuramente quello che non farà mai l'inciuso, le larghe intese. E dall'altro Berlusconi che dice: se volete un governo moderato, attento all'Europa, che abbia dei rapporti consolidati con gli alleati, eccetera, eccetera, votate Forza Italia. Quindi fa parte del giochino. Dopodiché chi sarà il premier veramente? Io credo che quel nome ancora proprio non è possibile. Non l'ha nominato nessuno, neanche lo si può immaginare. Senti, c'è questo ascoltatore o ascoltatrice, no, è Carlo, che forse è lui che insiste da un po' quando sente parlare di Salvini e ci sei tu Barbara, dice: Roberta, guarda che Salvini non è laureato e senza studio né esperienze, ha ragione Berlusconi a cercare un candidato intelligente con esperienze, laureato. Chiedi a Barbara se si è laureato o no. Rispondo io un attimo dicendo che, e lo dico da laureata, non è indispensabile che uno sia laureato per, no, credo, per fare leader politico. Non credo. Allora, tu sai se è laureato o no, Salvini? No, non lo so. E comunque non penso che sia questo l'elemento, il discrimine. Credo molto di più che ecco, una cosa che secondo me è discriminante è l'esperienza che uno ha avuto sia in politica, cioè quello che hai fatto in politica, se hai fatto il sindaco, se hai fatto il governatore, la tua esperienza politica nell'amministrare la cosa pubblica, che oppure nella vita professionale. Questo sì, perché è evidente che è un po' poi l'accusa che viene mossa ai 5 Stelle, cioè Berlusconi insiste molto su questo, non avete fatto niente e quindi di fatto come pensate di amministrare un paese se non avete mai amministrato niente. Allora, più che il titolo di studio, sinceramente, anche perché i titoli di studio mi sembra che negli ultimi anni siano una cartina tornasole poco credibile rispetto alle competenze, visto che si possono prendere anche facilmente in un'università, insomma, un pochino più leggere negli anni recenti. Sì. Barbara, allora si va verso le elezioni, no? E quindi c'è il solito rituale, questa gara di promesse elettorali. Renzi dal palco della Leopolda ha detto: conferma tutti i bonus concessi, dice, assicura che i famosi 80 euro che tante polemiche hanno suscitato, e si è chiesto, non capisco perché, non solo non verranno tolti, ma saranno alzati i limiti di reddito. Berlusconi ha detto, si è rivolto agli anziani, no? Agli amanti degli animali, e oltre all'aumento delle pensioni minime che ha promesso, assicura che ci saranno anche cinema e veterinario gratis. La Lega dice: via la legge Fornero, meno migranti, questo è il mantra di Salvini. Il Movimento 5 Stelle dal blog di Grillo promette soprattutto il reddito di cittadinanza, e poi ci sono gli evergreen, tutti che abbassano le tasse, no? E poi la costruzione sul ponte dello Stretto e varie altre cose. Vedo molti messaggi degli ascoltatori su questo tema, appunto chi dice: se dicono queste cose evidentemente ci sono anche, c'è un elettorato credulone. Poi Alessandro dice: due hanno già governato, a parte gli 80 euro che ci sono costati la gestione di tutti gli immigrati, non hanno fatto niente. Poi c'è il terzo che fa opposizione, sempre fatto quello che ha detto, per me la risposta è scontata. Poi c'è Francesco, dice: se promettono Castellinaria perché sanno che nonostante tutto appunto non mancheranno i creduloni. Giovanna: mi chiedo solo dove troveranno i fondi per mantenere le promesse. Poi tutto il resto, insomma, chi fa anche dell'ironia simpatica. Come chiudi, Barbara? Ma dicendo che noi abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa, e che prima di pensare a come spendere i soldi bisogna pensare come restituirli ai risparmiatori che su quei titoli hanno investito. Ricordiamoci che fino adesso abbiamo avuto l'ombrello protettivo del QE, che però si va esaurendo. Quantitative easing. E dal prossimo anno, dal 2018, diminuirà il sostegno da parte della Banca Centrale Europea fino a scomparire. Io credo che più che promettere, come dire, dentiere per tutti, bonus e altro, dovremmo preoccuparci di come amministrare Chiaro. Barbara Fiammeri, a presto, buona serata intanto. Grazie a voi, buonasera. Ciao Barbara. Ci prendiamo questa pausa, poi dopo ci sarà sempre tempo ancora per i vostri messaggi, dice questo ascoltatore Francesco da Torino. Mario Monti, super laureato, ha messo in ginocchio l'Italia, quindi il titolo di studio è relativo. Si trova sicuramente in una situazione molto complessa, ma a detta di molti, insomma, sicuramente non è stato il migliore presidente del Consiglio, e poi ognuno ha i suoi giudizi, i suoi criteri di giudizio. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, e anche se volete con voi la giusta conduttrice Roberta Giordano. Abbiamo iniziato come sempre alle 21, quindi già 40 minuti di notizie fitte fitte. Adesso proseguiamo con gli ospiti. Tra poco vi ricordo le notizie principali. Qualcuno ogni tanto, ancora dopo anni, mi chiede: ma perché ogni tanto? Perché non tutti puntualmente rispondono all'appello delle 21, no? Magari qualcuno accende in un momento diverso e quindi voglio tenerlo aggiornato almeno sui titoli principali. Tra poco scopriremo qual è la città che più è risalita nella classifica dedicata dal Sole 24 Ore alla qualità della vita nelle 110 province italiane. Intanto vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, commenti, così come anche potete inviarli via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. A proposito della politica, prima parlavamo anche delle promesse elettorali, dice questo ascoltatore: su Via promettere gratis, e d'altronde fa parte comunque di tutte le campagne elettorali del mondo. Poi dice invece Fabio: ormai è chiaro, col boom delle notizie false, a proposito di fake news, via rete non si distingue più il vero dal falso, alto il rischio manipolazione che poi giustifica l'attuazione di restrizioni da parte del governo, scrive Fabio. Ora cambiamo appunto argomento, vi ricordo velocemente che queste sono le notizie della giornata, quelle principali. La politica, ne abbiamo appena parlato, col Movimento 5 Stelle che attacca il PD sulle fake news, e nel centrodestra Salvini a Radio 24 smentisce Berlusconi sulla candidatura del generale dei Carabinieri Gallitelli. Manovra, arriva un fondo per chi assiste un familiare grave in casa e sconti fiscali per le librerie. Ostia, oggi in prefettura a Roma c'è stato un vertice sulla questione sicurezza. La 22enne suicida in Sardegna per video hard, la procura acquisisce il filmato, ci sono 3 indagati. Glifosato, via libera dell'Unione Europea, rinnovo per altri 5 anni dell'uso del potente erbicida. Italia e Francia hanno votato contro. E poi i reali inglesi, Harry e Meghan saranno sposi a primavera. Per il calcio, l'allenatore Montella è stato esonerato dal Milan. E siamo quindi alla classifica delle città italiane dove si vive meglio attraverso l'indagine del Sole 24 Ore, che è arrivata ormai alla sua 28ª edizione sulla qualità della vita nelle nostre città. E chi c'è in testa a questa classifica quest'anno? C'è la Veneta, città di Belluno. E poi c'è invece seguita da Aosta, da Sondrio, Bolzano e Trento. Dicevo, sono città tutte nei primi 7 posti che fanno parte dell'arco alpino del nord. Poi si aggiunge anche Trieste. In fondo alla classifica invece c'è Caserta in Campania. Questa classifica si basa sull'analisi di 6 macro aree e 42 indicatori. Dei nuovi indicatori che sono stati inseriti quest'anno in questa indagine sono acquisti online, il gap retributivo di genere, cioè la differenza, purtroppo lo scarto di retribuzione di donne e uomini a parità di qualifica e di ruolo, la spesa per i farmaci, il consumo del suolo, gli anni di studio degli over 25, l'indice di litigiosità nei tribunali, cioè il numero di nuove cause intentate nel 2016. Arretrano alcune grandi città come Milano, che nella classifica perde 6 posizioni e scivola all'ottavo posto, Roma che scende al 24esimo rispetto al 13esimo del 2016, Torino che retrocede al 40esimo posto. In coda, vi dicevo, alla graduatoria ci sono soprattutto le aree di Campania e Puglia, ben 8 delle ultime 10 posizioni si trovano in queste regioni. Vi dicevo, Caserta, maglia nera, Taranto al penultimo posto, al terzultimo c'è Reggio Calabria. Però diciamo che il benessere e la vivibilità di un territorio non è statico e rimane per sempre così cristallizzato, ma può esserci una certa dinamicità, quindi bisogna tener conto dell'evoluzione economica, sociale, degli stili di vita degli italiani. E qual è la città che ha rimontato più posizioni rispetto all'anno scorso e anche agli anni precedenti, che è stata capace di risalire rispetto alle edizioni passate? La classifica è Ascoli Piceno, bella città delle meravigliose Marche. E qui allora saluto il sindaco di Ascoli Piceno, che è Guido Castelli. Buonasera Castelli. Buonasera, buonasera a loro. Quindi risulta decisamente dinamica la sua città, capace di recuperare ben 27 posizioni risalendo dal 42esimo al 15esimo posto. Che miracoli ha fatto, sindaco, per arrivare a questo punto? Miracoli no, diciamo che abbiamo puntato su alcuni aspetti che evidentemente corrispondono anche al ranking del Sole 24 Ore. In particolare ci ha consentito di superare appunto tante posizioni il numero di start-up innovative. innovative, start-up digitali. Da questo punto di vista abbiamo un numero di nuove imprese sì, soprattutto nel settore digitale. Tant'è vero, siamo proprio al primo posto per quanto riguarda il numero di start-up digitali innovative ogni 1000 imprese e società di capitali. Da questo punto di vista, noi abbiamo investito su incubatori di imprese in particolare, ovvero soggetti che non si limitano solo a selezionare le buone idee, ma che le finanziano attraverso decisioni di partecipazione al capitale, che hanno consentito nel solo 2017 l'inserimento nel mercato di ben 28 nuove start-up digitali che cominciano a fatturare diverse centinaia di migliaia di euro. Diciamo che proprio individuando nelle singole classifiche la posizione che è, per quanto riguarda questo segmento, addirittura avete Ascoli prima in Italia, proprio sono le start-up innovative. Quindi l'innovazione è la vostra eccellenza. L'innovazione, diciamo, è la possibilità anche di attrarre cervelli che dall'esterno vengono ad Ascoli, scegliendo proprio il nostro hub di produzione di start-up innovative come luogo dove cimentarsi e avere anche la possibilità concreta di essere finanziati, perché le buone idee ce ne sono tante. È noto, è difficile poi unirle di quell'arsenale di competenze, di competitività finanziaria che consente a queste buone idee di diventare realtà che fattura, ecco. Tra l'altro mi pare che un altro vostro grosso merito sia quello del numero dei laureati rispetto ai residenti. Sì, esatto, soprattutto laureati compresi tra i 25 e i 30 anni, che vede Ascoli al secondo posto a livello nazionale. Noi abbiamo una serie di corsi universitari che hanno favorito questo tipo di risultato, abbinato anche al fatto che proprio in questi ultimi anni abbiamo molto lavorato sull'edilizia universitaria. Abbiamo 2 anni fa inaugurato un polo universitario che è stato interamente realizzato dal comune e destinato all'Università di Camerino, che da noi ha corsi di laurea piuttosto blasonati e specifici, che in qualche misura però si riconnettono sempre al discorso della innovazione, in particolare il corso di design industriale, che dà molte soddisfazioni anche per gli spin-off che riescono a cimentarsi, come nel precedente caso, proprio nel mercato delle produzioni innovative. Sindaco Castelli, per chiudere, se dovesse dare un consiglio da un punto di vista turistico a chi conosce poco Ascoli Piceno, che proprio così in modo sintetico cosa direbbe? Ma in modo sintetico che questa è una città molto bella, che cerca attraverso la qualità della vita per l'appunto di farsi conoscere, superando quei gap infrastrutturali che rendono piuttosto complesso raggiungerla attraverso i mezzi. Purtroppo la dorsale adriatica non è la più favorita per quanto riguarda la possibilità di accedere alle nostre zone, però attenzione, una volta che si superano le fatiche e le difficoltà per raggiungerla, Ascoli produce invariabilmente una bella sindrome di Stendhal in tutti coloro che la guardano. Una città molto bella, che grazie alla qualità, io voglio in chiusura ricordare anche le ottime posizioni in questa classifica per quanto riguarda il numero di spettacoli, il numero di sale cinematografiche, gli eventi culturali in genere. Anche questo, senza vanità, è una di quelle strategie che dopo la crisi abbiamo cercato di attivare per rendere la visita ad Ascoli o la permanenza ad Ascoli un bel sogno da realizzare. Complimenti allora ad Ascoli Piceno, grazie Sindaco Guido Castelli. Grazie. Buon lavoro, buona continuazione allora. Grazie. Di abilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E adesso vi ricordo velocemente i titoli perché abbiamo ancora dei temi. La manovra, arriva un fondo per chi assiste un familiare grave in casa, ci sono sconti fiscali per le librerie, della politica abbiamo parlato, delle polemiche tra PD e Movimento 5 Stelle sulle fake news e poi della sempre sfida alla leadership nel centrodestra tra Salvini e Berlusconi. A Ostia oggi vertice in prefettura a Roma per la questione sicurezza e poi il glifosato, via libera dell'Unione Europea, rinnovo per altri 5 anni dell'uso del potente erbicida. Italia e Francia hanno votato contro. Parliamo adesso di reali inglesi. E cioè della saga dei Windsor, ovvero i reali d'Inghilterra, si aggiunge un nuovo capitolo. Il principe Harry, che è il secondogenito di Carlo e Diana, e la fidanzata, l'attrice americana Meghan Markle, si sposeranno nella primavera 2018. L'ha annunciato la casa reale. Meghan ha 36 anni, lui ne ha 33, io pensavo ne avesse 31, quindi minore la differenza, che va benissimo. Comunque alle spalle lei, oltre ad essere un'attrice e avere 36 anni, ha un divorzio con un produttore americano. E tutto va benissimo, anche se, cara Enrica Roddolo, ciao Enrica. Buonasera. Che è giornalista del Corriere della Sera, esperta di teste coronate, famiglie reali, sulle quali ha scritto un sacco di libri. L'ultimo è Sì, matrimoni reali, matrimoni regali, e poi Dio salvi le regine, Invito a corte, eccetera. Enrica, quanto si è evoluta la casa inglese per di fronte anche a un matrimonio come questo, no? Dove lei è un pochino più grande, fa l'attrice, certo, ha un divorzio alle spalle? Certo. Beh, il contesto geopolitico internazionale era molto diverso nel 1936, quando Edoardo VIII dovette rinunciare alla corona per poter sposare un'americana divorziata, esattamente come Meghan, che si chiamava Wallis Simpson. Però diciamo, il contesto geopolitico era differente, sappiamo appunto c'era anche un conflitto mondiale che si stava preparando, quindi insomma era una realtà diversa, ma certo... al netto di tutto ciò, il cambiamento, l'evoluzione che ha fatto la corte britannica è veramente straordinario, e credo abbia veramente ragione Andrew Morton, il biografo della principessa Diana, quando intervistai quest'estate, nei 20 anni dalla morte di Diana, quando mi disse: ma la più grande legacy che ha lasciato la principessa Diana è la possibilità per i suoi figli di sposare finalmente la donna che amano. Quindi per amore. Tra l'altro va detto che Harry ha detto, quando le ha chiesto ai giornalisti, ma quando ha capito che era la donna giusta, dice: dal primo momento che l'ho vista ho capito che la dovevo sposare. Sì, assolutamente. Certo, quindi per amore. Questo è un salto siderale dai vecchi matrimoni di casa reale, che erano combinati o a tavolino o, quando andava bene, i promessi sposi si incontravano in qualche occasione di altro matrimonio reale o grandi eventi internazionali. Veramente un grande cambio di stagione, che è stato aperto come percorso dalle nozze di William e Kate nel 2011, perché anche in quel caso non dimentichiamo che Kate non era americana e non era divorziata, ma era comunque una ragazza borghese che sicuramente ha portato la sua bellezza, la sua intelligenza a corte, ma non una goccia di sangue blu. Enrica, a proposito di gocce di sangue blu, mi sembra di aver letto qualche giorno fa che forse qualche antenato di Meghan, qualche piccola gocciolina, non so se gliel'hanno iniettata alla bisogna, diciamo, oppure... Allora, questa ricerca si scatena ogni qualvolta c'è un nuovo ingresso nella casa reale britannica o altre case reali. Diciamo, sono sempre ricerche un pochino fantasiose, mettiamola così. Di certo, con Meghan entra anche la multirazzialità a corte, perché, come lei stessa ha ammesso... Ci sono stati dei commenti razzisti, no, su di lei? Dei commenti stati razzisti. In realtà lei personalmente ha ammesso di essere... diciamo di razza mista, nel senso che la madre è un'afroamericana e il padre invece è una persona appunto bianca, anzi di origini caucasiche, così aveva dichiarato lei al mensile Elle quando lo intervistarono, quando era soltanto un'attrice. Tempo fa. Comunque e bellissima, di fatto, possiamo è dire. È una donna bellissima, sì, di un grandissimo fascino, e quindi questo comunque introduce un altro grande elemento di novità, senza considerare anche il fatto che lei è un'ambasciatrice delle Nazioni Unite per la famosa campagna He for She, per l'eguaglianza di genere. Tra quindi donne e uomini. Veramente con questo matrimonio possiamo dire che casa Windsor fa un doppio salto mortale e diventa a tutti gli effetti un'apripista, diciamo, di una nuova sensibilità sociale e culturale, non più nelle retroguardie appunto, ma anzi diventa apripista di nuovi punti di vista, insomma, di nuove sensibilità culturali. Una nuova apertura sul mondo. Quindi ci uniamo alle felicitazioni di Elisabetta, che ci è parsa molto contenta, almeno a sì, parole. E non resta che augurare a Meghan e ad Harry di arrivare anche loro a 70 anni di matrimonio, come Elisabetta e il principe Filippo, che li hanno festeggiati pochi giorni fa. Grazie Enrica Roddolo, ciao Enrica. Grazie a voi, buonasera. Qui in vista un matrimonio d'amore, caro Dario Ricci, invece tu ci parlerai di un divorzio, eh, vero? Sì, beh, oggi bisogna chiamare appunto un matrimonialista, visto che il divorzio è, insomma, tu... insomma, Montella esonerato divorzio dal Milan. Tra il Milan e Montella, inevitabile, almeno dal punto di vista della dirigenza milanista, perché il Milan, lo sai, c'ha 20 punti come il Bologna e il Chievo, ha perso 6 partite contro le prime 6 della classifica, quindi segno che comunque questa squadra finora non è riuscita a essere competitiva al livello che la società aveva richiesto. Al suo posto ci sarà domani la presentazione Gattuso. Ufficiale Rino Gattuso, ex campione del mondo, ex bandiera del Milan, che stava allenando la primavera milanista, che in panchina non vanta grandissima esperienza né ha allenato il Pisa recentemente. Sì, ha allenato il Pisa, qualche altra squadra, il Sion, l'Offi Creta, anche esperienza all'estero, però spesso la gavetta si fa proprio sui campi un po' al riparo da un po' più ai margini, diciamo, quelli centrali. Ma ti piace Gattuso, ti convince? Comunque devi capire. Bisogna vederlo, perché cambia il carisma, sicuramente c'è, non è certo allenatore, ma lo conosciamo anche da giocatore che si spaventa per il palcoscenico di San Siro. Poi però intorno bisogna metterci tutto il resto e certo, non è poco. Bisogna anche vedere quanto questa squadra sarà in sintonia con questo tecnico. La sintonia con Montella sembrava essere via via scemata, no? E magari si sa, insomma, quando si crea questa sinergia spesso i risultati poi arrivano. Quello può essere la chiave del successo. A questo punto ci dobbiamo lasciare. Grazie caro Dario Ricci. Vedremo come si comporterà Gattuso. Noi invece ci ritroviamo brevemente alle 22:00.